Al-Hijr. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Alif Lam Ra. Questi sono i versetti del libro e la recitazione esplicita. Rubama yawad الذين كفروا لو كانوا مسلمين. I miscredenti un giorno vorranno essere stati musulmani. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Lasciali mangiare e godere per un periodo, lusingati dalla speranza. Ben presto sapranno. Non distruggiamo alcuna città senza prima darle una scrittura intellegibile. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. Nessuna comunità può anticipare il suo termine, né ritardarlo. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إن E dicono: O tu su cui è stato fatto scendere il monito, sei certamente posseduto da un demone. Perché? Se sei sincero, non sei accompagnato dagli angeli. Ma nunazzilu il malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idhan munzarin. Non faremo scendere gli angeli se non con la verità, e a quella gente in quel giorno non sarà dato scampo. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Noi abbiamo fatto scendere il monito e noi ne siamo i custodi. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. Già prima di te ne inviammo alle antiche sette. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. E non venne loro messaggero di cui non si burlassero. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. Lasciamo che ciò si insinui nei cuori degli empi. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. Non crederanno affatto nonostante l'esempio dei loro antenati. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. Se anche aprissimo loro una porta del cielo perché possano ascendervi. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. Direbbero: i nostri occhi sono ipnotizzati e o ci hanno lanciato un sortilegio. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. In verità, ponemmo costellazioni nel cielo e lo abbellimmo per coloro che lo osservano. وحفظناها من كل شيطان رجيم. E lo proteggiamo da ogni demone lapidato. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. Se uno di loro cerca di origliare, un folgorante bolide lo insegue. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. E la terra l'abbiamo distesa e vi abbiamo infisso le montagne e ogni cosa abbiamo fatto crescere con dovuta misura. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. Alimenti vi ponemmo per voi e per tutti coloro che voi non nutrite affatto. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. Di ogni cosa abbiamo tesori, ma la facciamo scendere in quantità misurata. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. I venti mandammo portatori di fertilità e dal cielo facemmo scendere l'acqua con la quale vi dissetiamo e che non sapreste conservare. In verità noi facciamo vivere e facciamo morire, e noi siamo l'erede ultimo di ogni cosa. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. Noi conosciamo quelli che vi furono precursori e conosciamo quelli che ancora tardano. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. In verità il tuo Signore tutti li riunirà. Egli è saggio, sapiente. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Creammo l'uomo con argilla secca, tratta da mota impastata. خلقناه من قبل من نار السموم. E in precedenza creammo i demoni dal fuoco di un vento bruciante. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. E quando il tuo Signore disse agli angeli: creerò un uomo con argilla secca tratta da mota impastata. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Quando poi lo avrò plasmato e avrò insufflato in lui del mio spirito, prosternatevi davanti a lui. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. E gli angeli tutti si prosternarono. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. Eccetto Iblis, che rifiutò di essere insieme prosternati. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. Allah disse, O Iblis, perché non sei tra coloro che si prosternano? قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. Rispose, Non devo prosternarmi di fronte a un mortale che hai creato di argilla risuonante, di mota impastata. قال فاخرج منها فإنك رجيم. Allah disse, fuori di qui, che tu sia bandito. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. In verità sei maledetto fino al giorno del giudizio. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. Disse, O Signor mio, concedimi una dilazione fino al giorno in cui saranno resuscitati. قال فإنك من المنظرين. Allah disse, che tu sia fra coloro a cui concesse la dilazione. إلى يوم الوقت المعلوم. Fino al giorno del momento fissato. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Disse, O Signor mio, poiché mi ha indotto all'errore, li attirerò al male sulla terra, rendendola attraente, e certamente li farò perdere tutti, illa ibadaka minhumul mukhlasin, eccetto i tuoi servi sinceri. قال هذا صراط علي مستقيم. Allah disse, Questa sarà la retta via da me custodita. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. Non avrai alcun potere sui miei servi, eccetto i perduti che ti obbediranno. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. E l'inferno sarà certo il loro ritrovo. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. Esso ha sette porte e ciascuna ne avrà dinanzi un gruppo. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. I timorati invece saranno tra giardini e fonti. Udkhuluha bi salamin aminin. sarà detto loro: entratevi in pace e sicurezza. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Monderemo il loro petto d'ogni risentimento e staranno fraternamente su troni, gli uni di fronte agli altri. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Non proveranno fatica alcuna e mai verranno espulsi. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. O Muhammad, annuncia ai miei servi che in verità io sono il perdonatore, il misericordioso. وأن عذابي هو العذاب الأليم. E che il mio castigo è davvero un castigo doloroso. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. E racconta loro degli ospiti di Abramo. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. Entrarono nella sua casa dicendo: pace. Disse: in vero ci fate paura? قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. Dissero: non temere, noi ti annunciamo un figlio sapiente. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. Disse: mi date questo annuncio quando già mi ha raggiunto la vecchiaia. Che specie di annuncio è questo? قالوا بشرناك بالحق فَلَا تَكُن مِنَ الْقَانِطِينَ. Dissero: quello che ti annunciamo è la verità, non essere fra coloro che disperano. قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا Disse: chi mai dispera della misericordia del suo Signore se non gli sviati? Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun. Disse ancora: qual è la vostra missione, o inviati? Qalu inna ursilna. Risposero: siamo stati inviati a un popolo di empi. Illa ala Lutin inna lamunaggiuhum ajma'in. A parte la famiglia di Lot, che tutta salveremo. Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Eccetto sua moglie. Decretammo che fosse tra quelli che sarebbero rimasti indietro. Falamma jaa ala lutin il mursalun. Quando poi gli inviati giunsero presso la famiglia di Lot, qala innakum qaumun munkarun. Questi disse loro: «In vero siete gente che non conosciamo». قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. Risposero: «Anzi, siamo venuti a te per recare ciò di cui dubitano». وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. Siamo venuti con la verità. E in verità siamo sinceri. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. Fai partire la tua gente quando è ancora notte e stai in retroguardia, e che nessuno si volti a guardare indietro. Andate dove vi è stato ordinato. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. Questo decidemmo nei suoi confronti, che in verità tutti gli altri al mattino seguente sarebbero stati annientati. Vennero infatti gli abitanti della città rallegrandosi. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. Disse Lot: «Sono i miei ospiti, non disonoratemi». واتقوا الله ولا تخزون. Temete Allah e non copritemi di vergogna. قالوا أولم ننهك عن العالمين. Risposero: «Già ti abbiamo proibito di proteggere chi che sia». قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. Disse: «Ecco le mie figlie, se proprio volete farlo». لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. Per la tua vita, o Muhammad, erano accecati dalla loro lussuria. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. All'alba li sorprese il grido. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. Sconvolgemmo la città e facemmo piovere su di essa pietre d'argilla indurita. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. In verità in ciò vi è un segno per coloro che ne tengono conto. وإنها لبسبيل مقيم. In verità essa si trovava su una strada ben nota. إن في ذلك لآية للمؤمنين. In verità in ciò vi è un segno per coloro che credono. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. E anche gli abitanti di Alaika erano iniqui. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. Ci siamo vendicati di loro. In vero, quelle due sono su una strada ben riconoscibile. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. Già gli abitanti di Al-Hijr tacciarono di menzogne i messaggeri. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Demmo loro i nostri segni, ma rimasero indifferenti. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. Scavavano nelle montagne le loro case sicure. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. Ma al mattino li sorprese il grido. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Quello che avevano fatto non li riparò. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. Non abbiamo creato i cieli e la terra e quello che vi è fra mezzo, se non con la verità. In verità l'ora si avvicina. Perdona dunque magnanimamente. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. In verità il tuo Signore è l'incessante creatore, il sapiente. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. Ti abbiamo dato i sette ripetuti e il sublime Corano. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alayhim wakhfid janahaka lil mu'minin. Non volgere gli occhi con invidia dell'effimero benessere che abbiamo concesso ad alcuni di loro, e neppure devi rattristarti per loro. Abbassa però la tua ala verso i credenti. Di, sono nunzio evidente di un castigo. كما أنزلنا على المقتسمين. Lo stesso che facemmo scendere sui congiurati. الذين جعلوا القرآن عضين. E quelli che fanno del Corano un'accozzaglia slegata. فوربك لنسألنهم أجمعين. Per il tuo Signore tutti li interrogheremo. عما كانوا يعملون. A proposito di quello che facevano. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Proclama con forza quello che ti è stato ordinato e rifuggi dagli associatori. إنا كفيناك المستهزئين. Noi ti bastiamo contro chi ti schernisce. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. Contro coloro che affiancano ad Allah un'altra divinità. Presto sapranno. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Ben sappiamo che il tuo petto si affligge per quello che dicono. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Glorifica il tuo Signore lodandolo e sii tra coloro che si prosternano. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. E adora il tuo Signore finché non ti giunga l'ultima certezza.